La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Ben ritrovati a questa nuova puntata della Prima Volta. L'ospite di oggi è Donato Carrisi, scrittore tra i più amati in Italia, tradotto all'estero, laureato in giurisprudenza con una specializzazione in criminologia e scienze del comportamento. Allora, la prima domanda è: perché ha scelto questa formazione? In realtà è stato tutto casuale, come capita a volte nella vita. Io ero destinato ad una carriera da avvocato civilista più che da avvocato penalista, anche se mi piaceva molto il diritto penale. Dopo la laurea, dopo aver fatto una tesi su Luigi Chiatti, mi è capitata l'occasione di fare questo corso sulla criminologia e sulla scienza del comportamento, e da lì è scattata una scintilla. Diciamo che mi sono scoperto non tanto criminologo quanto serial killer. Non ho ancora ucciso nessuno, ma almeno non l'ho fatto dal vivo. Nei miei libri lo faccio parecchio. Tra l'altro, questo è un tema che tu avevi già sollevato nel corso di un'intervista, no? Tu avevi detto che non credi al concetto di raptus, ma che invece insomma c'è questo seme che germoglia all'interno e che poi si realizza in un atto di violenza. Beh, era stato un po' più semplice, nel senso che avevo detto siamo tutti dei potenziali assassini, non tanto dei potenziali serial killer, perché c'è una cosa che nessuno considera: un omicida non sa mai di essere un omicida prima di commettere il primo delitto. Nessuno lo sa mai, a meno che non ci sia una premeditazione, e questo avviene molto di rado. Anche chi magari cova una rabbia profonda nei confronti di una persona e ha intenzione di ucciderla non sa di essere un assassino finché non lo fa, finché non si trova davanti al cadavere, quando non verifica effettivamente che davanti a sé ha una persona morta, che quella persona è morta per mano sua. Ed è una cosa che può succedere a chiunque, tant'è che la prima reazione di ogni omicida è lo stupore, anche quando vengono interrogati. Sono tutti quanti stupiti, è come se parlassero di terze persone, ma è una cosa che qualunque inquirente, qualunque carabiniere, poliziotto può testimoniare, insomma. Infatti molto spesso in alcuni casi di cronaca una cosa che sottolineano gli inquirenti è proprio il fatto della freddezza dell'assassino, quindi la mancata reazione normale, ma un passaggio successivo a quello che hai appena descritto, quindi l'essere più freddi rispetto a quello che hanno compiuto, quindi l'essere più presenti rispetto a quello che è stato fatto. Ma non è freddezza, è proprio inconsapevolezza: ma sono stato davvero io? Poi viene scambiata per freddezza. In realtà non c'è questa freddezza. L'essere umano è dotato di sistemi di autoprotezione, chiamiamoli così. Quindi questa specie di autocontrollo in realtà non esiste. È soltanto un modo per proteggere se stessi dalla realtà di ciò che si è fatto. Non sono io l'assassino, non sono io il cattivo, non posso essere stato io. E poi invece si sbatte di solito contro la realtà, a meno che non si tratti di assassini professionisti o di assassini che uccidono per puro piacere di farlo, quindi di sadici. Ma lì entriamo nel patologico, sì. Insomma. Ecco, una cosa che volevo chiederle è perché lei nei suoi romanzi non descrive mai l'atto di violenza, ma in qualche modo ciò che gli sta attorno, no? La violenza è pornografia per quanto mi riguarda, e poi perché non crea paura. La paura è l'elemento essenziale dei miei romanzi. La violenza non fa paura, la violenza fa ribrezzo. La paura invece si crea utilizzando un elemento della quotidianità, della normalità, e cambiandogli quasi l'accezione. Io una volta ho letto una frase su internet che probabilmente diciamo riassume in maniera efficace quello che succede. Cioè, non esiste suono più bello della vita della risata di un bambino, tranne se la senti di notte, sei solo in casa e non hai figli. Ecco, già qui parte il brivido, ovviamente. Orrendo, sì, in effetti. Ma quindi questo in qualche modo, lei dice, bisogna evocarla questa paura, non descrivere la realtà che tutti si possono immaginare, ma qualcosa che c'è stato, che non c'è più, che ci potrebbe essere, in questo senso. Io vado a riprendermi le paure dei bambini, vado a riprendermi le paure che il lettore ha provato da bambino: la paura del buio, la paura della solitudine, la paura del mostro. Tutti abbiamo avuto un mostro, sì, dell'infanzia. È come se calassi la mano nel cuore del lettore e ritirassi fuori una paura che il lettore crede di aver dimenticato, ma in realtà è sempre lì, è sempre presente. E qual era quella sua da bambino? Quella tua da bambino? Ma io ne avevo diverse di paure, perché ero davvero un cacasotto, nel senso che riuscivano a spaventarmi con poco, perché ero un bio tremendo, quindi per tenermi a bada dovevano spaventarmi in qualche modo. Ma come? In che senso? Che infanzia hai avuto? No, ero veramente un bambino tremendo, mi combinavo di tutti i colori, per cui mi creavano sempre il mostro di turno che mi doveva mangiare, che mi doveva, no, rapire. I miei genitori mi avevano convinto a un certo punto, era il periodo dei rapimenti degli anni 70, che potessi essere vittima di un rapimento. Io non ho mai pensato che non eravamo abbastanza abbienti perché io fossi il bersaglio di un probabile rapimento. Non avevo mai collegato la cosa con l'aspetto economico. Quindi c'era anche l'orrore che qualcuno potesse portarti via e chiedere poi un riscatto. Un riscatto, sì. Ma sì, è sì, terribile. Sì. E mamma e papà non erano abbastanza ricchi, insomma, erano due insegnanti, per cui non facevo questo collegamento, la cosa mi spaventava lo stesso. E poi quindi, cioè, in qualche modo forse è stato proprio questo che ti ha spinto a scrivere libri che poi ti hanno portato al successo, alla realizzazione anche tua personale, diciamo che hai pagato, ti sei ripulito. Sì. Esatto. No, mi sono ripreso, ma in realtà io ho cominciato a scrivevo commedie per il teatro, che erano commedie comiche, erano assolutamente comici, erano spettacoli comici, e io facevo venire giù il teatro con le risate, avevo una piccola compagnia in Puglia e non ho mai fatto roba, insomma, da thriller, al massimo potevo scrivere una cosa noir. Poi sono passato alla TV e scrivevo roba per famiglia, per Rai 1, quindi insomma scrivevo Casa Famiglia con Massimo D'Apporto, quindi era il melò, il secondo genere della mia vita. Poi è arrivata questa terza vita del thriller. Probabilmente il passaggio, diciamo, questo passaggio intermedio ha scatenato il mostro. Continui a scrivere per il teatro o no? No, non continuo a scrivere per il teatro, perché penso che il pubblico del teatro ormai sia un pubblico talmente diverso da quello che cerco io, che sarebbe inutile scrivere per il teatro. Io penso che sia uno strumento ormai un po' morto, uno strumento, mi dispiace molto dirlo perché sono un grande amante del teatro, ma penso che il teatro sia un po' morto, cioè, non vedo una nuova idea da troppi anni, un'idea rivoluzionaria, non si fanno più le rivoluzioni col teatro. Un tempo, fino agli anni 70, si poteva rivoluzionare davvero con il teatro, portare un'idea forte. Adesso insomma è tutto un po' così, come dire, intellettuale, ecco. Stranamente però, quando faccio le presentazioni dei libri, le mie presentazioni sono molto teatrali, sono molto multimediali, quindi c'è comunque una sorta di omaggio al teatro, ma raccontare una storia attraverso il teatro, suscitando le emozioni che può suscitare un romanzo moderno, ovviamente, costruito con una tecnica moderna, o una serie televisiva o un film, non è più possibile, insomma. E quando fa le presentazioni le piace il pubblico che viene, riprendendo quello che ha detto prima sul pubblico del teatro, che in questo momento a lei non piace? Mi piace il pubblico che viene e soprattutto mi piace che sia partecipe. Io durante le mie presentazioni non servono mai per spacciare un libro, ecco, io non tendo mai a fare questo, nel senso che le racconto sempre il contorno del libro, cioè tutto quello che è poi da cui poi è scaturita la storia del libro. Ma non, il libro rimane sullo sfondo, diciamo, bisogna scegliere lo scrittore durante la presentazione, poi lo scrittore sparisce e arriva il libro. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco. La prima volta. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15:30 tutti i giorni su Radio 24. La prima volta. Di nuovo insieme a Donato Carrisi, scrittore, in libreria con La ragazza nella nebbia, un thriller, un libro che descrive le dinamiche che stanno dietro alla formazione del mostro. È così? Ci può raccontare qualcosa? Cos'è che sta raccontando in questi giorni che è in giro proprio a presentare il libro? Racconto come in realtà la storia viene creata dai media ed è il pubblico che crea la storia propriamente utilizzando gli elementi che vengono forniti dai media, che poi passano attraverso le maglie dell'inchiesta, perché anche gli inquirenti si servono dei media per comunicare con l'opinione pubblica. Avviene una cosa molto strana. Di solito quando viene individuato il colpevole di un delitto non si cambia mai idea. Gli inquirenti non cambiano mai idea, l'opinione pubblica non cambia mai idea, quindi il colpevole, una volta individuati, arrestati, vengono processati e poi il loro destino viene affidato ad una corte, vengono assolti oppure vengono condannati, più spesso condannati, ma nessuno torna sui propri passi. Perché gli inquirenti non tornano sui propri passi? Nessuno si fa sorgere un dubbio. È successo soltanto nel caso del mostro di Firenze che questo sia avvenuto, perché era il mostro stesso a scagionare quelli che venivano puntualmente arrestati, uccidendo di nuovo, tornando a colpire. Quando si decide un colpevole si va fino in fondo e succede puntualmente, succede con il caso di Iara, succede con il caso di Melania Rea, e questa è la cosa che più mi sconvolge, è come se ci fosse una specie di predestinato, quindi tutte le risorse vengono investite in un'unica direzione e a un certo punto si sceglie quella direzione e si abbandona il dubbio, e forse anche un po' colpa nostra, no? C'è una specie di infallibilità dell'opinione pubblica e di conseguenza degli inquirenti, e questa cosa mi spaventa molto, perché chiunque può diventare vittima di questo sistema. Tu hai detto che non esistono, secondo te, scrittori che stanno seduti a spremersi le meningi per ore inventando storie così di sana pianta, ma, e questo l'ha confermato anche questa intervista, esistono invece scrittori che se ne vanno in giro a raccoglierle le storie e poi raccontarle. Quindi secondo te questa cosa non è vera? Non lo so, per me non è vera. Per me sarebbe una creatività imbrigliata. Io cazzeggio gran parte del giorno, poi comincio a scrivere e sono un treno. Poi se invidio molto questi soldatini della scrittura, francamente, che riesce a darsi una disciplina di ferro, riesce a piazzarsi lì col sedere sulla sedia davanti allo schermo, alla pagina bianca, li invidio tantissimo. Ma io non sono così, io ho bisogno veramente di andare in giro, di parlare con la gente, di trovare le battute, di trovare le facce, di cercare anche le storie, insomma, anche perché nei miei romanzi la metà delle cose che racconto sono frutto di fantasia, l'altra metà viene direttamente dalla realtà. E da lettore che cos'è che ti piace? Cioè cos'è che leggi? Tutto. Ogni cosa che mi capita, che mi può interessare, la leggo. Non ho gusti particolari, sembra strano, dice ma è il tuo scrittore preferito? Non ho scrittori preferiti. Il tuo romanzo preferito? Ma ce ne sono talmente tanti che mi hanno lasciato un pezzettino di qualcosa che cioè, non è possibile, anche perché poi lo stile, il gusto si formano guardando varie cose. Poi davvero, l'ultimo libro che ho letto è stato il libro del figlio di Irina. Molti mi malediranno per questo, perché ho finanziato la mafia, porca miseria, gli saranno pagati i diritti d'autore, ma non mi sento in colpa per questo, perché lo fa anche chi fuma uno spinello, che ancora in Italia è illegale, però sai, quella cosa è un po' più figa, un po' più di sinistra, centro sociale con la chitarra, capisci? Cioè lì si assolvono tutti. Se uno compra il libro di Rina diventa subito un mostro. È un libro banale, è un libro inutile, quindi posso anche dire non leggetelo, perché tanto è una grandissima bugia. La cosa che più mi ha sorpreso, ed ecco perché ogni libro ha la sua sorpresa, la cosa che più mi ha sorpreso sono stati i ringraziamenti finali. Io non anticipo nulla, andate in libreria, le librerie che ce l'hanno, aprite la pagina senza comprare il libro, leggetevi 5 righe di ringraziamenti finali, vi rendete conto di che cos'è la mafia. Vado ecco, quei ringraziamenti sono la parte più sincera di quel libro. E che mi ha è lì che è raccontata la vera storia, nei ringraziamenti finali. Poi il resto è fuffa, fuffa scritta grande, perché poi è tutto è scritto grande, diciamo così, no? Ascolta, domenica prossima sei a Torino alle 17, sei al nuovo spazio del libraio.it, mi hanno detto assolutamente di dirlo, al salone. Cosa succede di solito in questi incontri? Ce l'hai già un po' raccontato. Allora, però alle 17 che cosa... sono in sala gialla a fare la mia presentazione della ragazza nella nebbia. La mattina sarò invece allo stand del libraio a parlare con a conversare con il mio editor, cioè a rivelare quelli che sono i segreti che si nascondono dietro i miei libri. In realtà intervisterò il mio editor, che è la mia anima oscura, in quell'occasione, per cui chi ha l'ambizione di scrivere dovrebbe venirci a sentire, ma non per capire come si scrive un romanzo, ma per capire come si crea un rapporto che poi arriva a sviluppare una storia, perché da questo che nascono i romanzi, dai rapporti con le persone. Prima di salutarti, volevo chiederti se hai, ecco, se tu dovessi scegliere una prima volta altamente formativa per la tua esistenza, cioè ce n'è una che ti viene in mente? Ah beh, guarda, io ho collezionato tantissime prime volte. La prima volta più significativa è stata l'incontro con una suora all'oratorio, quando raccontavo le storie macabre ai miei amichetti dell'oratorio, che dopo avermi scoperto mi disse: Donato, tu hai l'angelo custode cattivo, perché raccontavo queste cose un po' macabre. E per me era, invece di intimidirmi questa cosa, era un po' come la licenza di uccidere di James Bond, potevo fare qualsiasi cosa, tanto era sempre colpa dell'angelo custode cattivo. Era è il capro espiatorio perfetto, insomma. Ma poi era un ennesimo tassello, diciamo, di questa infanzia contornata da mostri che ti seguivano, quindi addirittura l'angelo custode cattivo, insomma, era... Sì, ma io ho visto il mio primo cadavere a 5 anni, in Puglia, la mia mamma mi portava a far visita ai defunti, insomma, ho visto il mio primo cadavere a 5 anni e quindi ho un rapporto con la morte molto particolare, insomma. Mi ricordo un'altra cosa che ho raccontato anche sul Corriere della Sera: c'era un vicino di casa morto e questo signore che mi sorrideva sempre quando mi incontrava, me lo ricordo, mi regalava le Rossana, ecco, si cacciava una mano in tasca e mi regalava una Rossana, che adesso stanno uscendo dal commercio ed è una cosa contro cui combatterò fino alla morte. E insomma, questo signore non veniva esposto a parenti ed amici, cioè le figlie non volevano esporlo a parenti ed amici. Io non sapevo che cosa stesse succedendo nel palazzo, perché era effettivamente il mio primo approccio con la morte. Mi infilai in segreto, insomma, in quell'appartamento ed entrare nella camera del defunto, e il defunto era lì steso su un letto con gli occhi chiusi, le mani incrociate, perfettamente vestito col suo vestito da morto, perché ognuno di noi ha il suo vestito da morto al sud, e sorrideva, aveva avuto probabilmente un ictus, una paresi facciale, e aveva questo sorriso. E il mio primo ricordo del cadavere era questo di quest'uomo che sorrideva. I bambini non vedono la morte, per loro la vita dura un giorno, da quando si svegliano a quando vanno a dormire. È vero, non pensano al futuro, non pensano al passato. Il domani è cosa giocherò domani, cioè questo. La vita dura un giorno, è quello. Mi sveglio, mi addormento. E questa cosa l'hai imparata da bambino o perché da papà, guardando tuo figlio, insomma, l'hai ripassata un po'? Ma mio figlio è ancora un po' troppo piccolo, perché ha appena 14 mesi, ma credo di trovarlo anche lui. L'ho imparata da bambino, perché da bambino me ne fregava poco. Cioè non, in realtà il rapporto con la morte vera io l'ho avuto a 12 anni, quando si è ammalata una persona di famiglia. E lì ho capito il significato, e lì in quel momento è finita la mia infanzia. È lì che è morto Babbo Natale, che insomma è cambiato un po' tutto ed è arrivata la dura e difficile realtà dell'esistenza. E quando ti succede accanto questa cosa, quando ti rendi conto, è peggio della scoperta della morte, penso nell'infanzia, si sia la scoperta della malattia, cioè vedere una persona cara che soffre. La prima volta termina qua, io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ringrazio anche per le cose che ci scrivete sulla nostra pagina Facebook Radio 24 la prima volta. Se volete potete riascoltare le puntate andando sul sito di Radio 24. Buona serata e buon inizio di settimana a tutti da Cristina Carpinelli.